Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti. Il nostro viaggio nella cosiddetta nuova emigrazione italiana supera la boa del primo mese di messa in onda, continuando a raccontare questo vero e proprio esodo di giovani tra i 20 e i 40 anni che, al ritmo di oltre 30.000 all'anno, una cifra per difetto, come abbiamo appurato la scorsa settimana, lasciano lo stivale in cerca di migliori prospettive professionali e di vita. Lasciano quello che, come ci raccontano settimanalmente, è sempre meno un paese per giovani. Ascoltate per cominciare questa anticipazione della storia che vi narreremo oggi. Quando in Italia dicevo "ma io faccio il documentarista", la seconda domanda era "sì, ma vabbè, ma il tuo vero lavoro qual è vero?" Sì, assolutamente. Io, è normale. A me capitava così anche a molti amici che fanno magari regia, che fanno montaggio, che lavorano insomma nel campo cinematografico, documentaristico. A me insomma capita, anche perché le persone non sono abituate. Si pensa che diciamo sia una passione, che resti una passione e quindi che non ti permetta di mangiare. In realtà in Francia sì, poi in Italia forse un po' meno. Luca Bergamaschi, il protagonista della puntata odierna di Giovani Talenti, svolge una professione molto particolare, il documentarista. Scrive e dirige cioè documentari, un lavoro che in Francia, dove vive, gode di status e privilegi che trovano pochi equivalenti in Italia. Ora, spazio al notiziario. La Fondazione per il Sud ha deciso di sostenere 6 iniziative per il contrasto della fuga dei cervelli dal Mezzogiorno, erogando oltre 2 milioni di euro. Gli atenei coinvolti appartengono alle regioni meridionali. L'obiettivo dell'iniziativa è trattenere i giovani talenti formatisi nel Sud attraverso la messa in rete delle migliori risorse territoriali. I contenuti formativi spaziano dal professionista del monitoraggio ambientale alla formazione nel settore delle biotecnologie, dalle figure del comparto agroalimentare all'esperto in ricerca e innovazione aziendale. Maggiori informazioni al sito www.fondazioneperilsud.it. Ministero della Gioventù e Unione delle Province Italiane Insieme, in un progetto che riguarda le politiche per le nuove generazioni. All'iniziativa Azione Province Giovani sono stati destinati 3 milioni di euro del Fondo per le Politiche Giovanili. Tra gli obiettivi, ambiente, occupabilità e sicurezza e salute. Firmato nei giorni scorsi un accordo tra il Comune di Milano e il Ministero degli Esteri per l'attrazione dei cervelli stranieri, l'iniziativa si avvale di uno strumento denominato One Dream, One City per stimolare l'attrazione dei giovani talenti che arrivano dall'estero. Due le finalità: far rimanere in Italia gli studenti formatisi qui e far sì che essi stessi, tornando nei loro paesi, divengano ambasciatori della nostra cultura. Al via il progetto Youth Talent, promosso dal Forum Nazionale dei Giovani per valorizzare i numerosi talenti che intendono affacciarsi nel mondo della cultura e dello spettacolo. Maggiori informazioni al sito www.youthtalent.it. Trasformazioni e certezze, globalizzazione e identità, questo lo slogan che accompagnerà la 2 giorni del 4° congresso della WIM, l'Unione Italiani nel Mondo, in programma a Roma il 24 e 25 febbraio prossimi. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta, o meglio, ci riporta in Francia, paese che ha inaugurato proprio un mese fa il ciclo del programma. Nome: Luca. Cognome: Bergamaschi. Età: 34. Città di origine: Cremona. Studi: Università di Sociologia. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2004. Per andare dove? Parigi. Perché? Per lavoro e amore. Quale lavoro svolgi attualmente? Documentarista e montatore. Dove? In Francia. Tornerai? Non credo. Fortemente voluta da Mussolini e dal segretario nazionale del partito fascista, Achille Starace, nasce sull'asse strategica del Brennero una nuova fabbrica di guerra. Viene costruita a Trento la fabbrica chimica Sloy, società lavorazioni organiche e inorganiche. Quello che state ascoltando è uno degli ultimi documentari girati da Luca Bergamaschi, Sloy, la fabbrica degli invisibili. Questo è il titolo. Di cosa parla, Luca? Sloy l'ho girato con un'altra regista, Katia Bernardi di Trento, e racconta diciamo la storia di una fabbrica a Trento, una ex fabbrica di piombo che

Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della storia di Luca Bergamaschi, giovane documentarista di stanza a Parigi, dove, come ha scritto a giovanitalenti@radio24.it, ha trovato un mercato lavorativo impensabile per lui nel bel paese, arrivando a rendersi indipendente e diventando freelance. Questo paese è l'unico al mondo, e Luca si riferisce alla Francia, che prevede uno statuto particolare per chi lavora nel mondo della televisione, uno statuto che prevede una forma di disoccupazione per gli artisti e i tecnici che fanno parte del mondo artistico. È grazie a questo ordinamento che in Francia il posto della cultura e dell'arte è ancora così elevato all'interno della società, ci ha scritto per l'appunto Luca. Federico Schiavi, presidente di DocIt, l'associazione dei documentaristi italiani, e qui invece come si vive? Ma qui si vive, è difficile dare un quadro unitario. Rispetto alla questione previdenziale, se di questo vogliamo parlare, va detto che non è che il lavoratore dello spettacolo sia totalmente lasciato a se stesso, cioè è prevista la disoccupazione, non nelle forme così protettive quanto in Francia, ma comunque esiste. Il problema forse è più strutturale, perché è tutto l'impianto produttivo che fa sì che sia addirittura molto spesso difficile che un lavoratore riesca ad avere i contributi per il lavoro che ha prestato, e quindi poi che risulti non collocato, diciamo, per un giorno, per una quantità di giorni sufficiente. Però io sarei meno perentorio sulla situazione, diciamo, del documentario in Italia, perché il panorama televisivo è effettivamente quello che è, diciamo, a parte alcune eccezioni. Forse quando è partito Luca mancavano alcune piattaforme interessanti dal punto di vista del documentario, che adesso ci sono, però certamente è incomparabile la situazione in Francia con quella in Italia. Però diciamo che c'è tutto un qualcosa che è al di fuori della televisione e che è un contesto estremamente vivace, estremamente interessante, e in questo, diciamo, in Italia stiamo vivendo un periodo che comunque va guardato con interesse, ecco. Luca, c'è qualcosa che vorresti chiedere a Federico? No, volevo solo aggiungere che sono assolutamente d'accordo con quello che dice Federico rispetto al panorama che è extra, diciamo, televisivo. C'è un fermento, il mondo del documentario rinasce perché i ragazzi, la gente fa anche autoproduzione, comunque vuole raccontare questo mondo, quindi è assolutamente vero. Io proprio parlavo delle televisioni in quanto, diciamo, possibilità di coproduzione e anche di professionale, perché poi alla fine si cercano sempre le televisioni per poter non fare documentario ma viverci, perché si può fare documentario, però poi senza televisioni probabilmente è anche duro coprodurlo, e quindi... Federico, io poi appunto rispondi anche a quello che dice Luca, però volevo anche chiederti un po', tu sei giovane tra l'altro, beh, quanto è facile o difficile per un giovane entrare nel mondo dei documentari in Italia? No, guarda, dipende sempre da quello che vuoi fare. Sentivo la biografia di Luca e siamo colleghi, perché anch'io sono un montatore, quindi l'inizio della mia carriera è stata quello di montatore, e poi ho proseguito anche parallelamente l'attività di produttore, quella di montatore. Dipende sempre da quello che si vuole fare, appunto, per cui in ogni settore si sceglie quanto deve essere al di fuori del mercato la propria concentrazione creativa e quanto dentro, e in base a questa scelta poi bisogna fare anche o dei sacrifici o decidere quanto tempo dedicare al sostentamento della propria vita, no? Federico, però è un caso raro quello di Luca emigrato per, diciamo, poter lavorare e anche avere finanziamenti in un altro paese? Molti vanno in Francia, io ho colleghi, amici che sono partiti, e in Francia effettivamente chi lavora nell'audiovisivo è più tutelato, non c'è confronto, diciamo, rispetto alla situazione italiana. Va detto che purtroppo anche in Francia le cose stanno peggiorando sensibilmente, questo forse ce lo può raccontare meglio. Luca, stanno peggiorando? Sì, ad esempio l'intermittenza dello spettacolo una volta era, qualche anno fa, la disoccupazione era di 10 mesi, adesso è di 8, quindi lo stesso sociale si sta riducendo, diciamo, anche per scelte politiche, e anche le televisioni, insomma, c'è una tensione. Ad esempio la più grossa televisione, cioè quella dove tutti vorrebbero, tutti, insomma, una buona televisione come Arte, ha cambiato un po' taglio, fa cose un po' diverse, quindi sì, diciamo che era meglio 5 anni fa o 10 anni fa, però insomma il paragone chiaramente rimane forte con l'Italia, la differenza. Federico, io comunque auguro a te e a tutti i documentaristi che vivono e lavorano in Italia veramente buona fortuna, anche perché non è facile, ma ce la state mettendo tutta. Grazie. Io ringrazio appunto Federico Schiavi, presidente di DocIt, che ci ha raggiunto appunto in onda per parlare di quanto è facile o difficile essere documentaristi e soprattutto giovani in Italia. Un'ultima domanda invece per Luca Bergamaschi, ospite di questa puntata, ed è la domanda di rito che facciamo a tutti i protagonisti della trasmissione, cioè quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà, che sta pensando tra le varie vie d'uscita anche a un espatrio all'estero? Consiglio chiaramente di espatriare, prima cosa per cultura, per insomma da un punto di vista personale, perché comunque espatriare apre la mente, e espatriare non solo apre la mente ma fa conoscere anche di più, anche diversamente, diciamo, il paese in cui vivi, ti dà un po' di respiro, di analisi anche. E da un punto di vista professionale, sì, come diceva Federico, la Francia offre parecchio, poi chiaramente la concorrenza è forte perché siamo in tanti, e la qualità, diciamo, francese è alta, però c'è una reale possibilità, insomma. Tu a quali condizioni torneresti eventualmente? Beh, se ci fosse l'intermittenza dello spettacolo anche in Italia, la stessa, diciamo, più o meno. Se ci fosse un buon sistema di ammortizzatori sociali, vuoi dire? Esatto. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi parliamo di Vision, un think tank interamente focalizzato sui giovani talenti in Italia e all'estero. Ai nostri microfoni Francesco Grillo, Director di Vision. Vision è un think tank è una definizione dal mondo anglosassone. In Italia si parla di centri studio. La differenza rispetto a un centro studio è che Vision è appunto animata da un network di persone tendenzialmente giovani che hanno le caratteristiche dei cosiddetti cervelli in fuga. Sono persone che studiano o hanno studiato all'estero, vivono in grandi città italiane e europee. Peraltro nel network di Vision 2/3 delle persone sono donne e il 30% non sono italiani. Il network quindi è una modalità organizzativa molto più flessibile rispetto a dei centri studi tradizionali, ed è impegnata su una serie di progetti che vanno dall'università al futuro delle città, sui quali si aggregano e vengono aggregati da un nucleo di persone che sono al centro, che fanno da marketing manager di Vision. Tra i vostri studi, tra le vostre attività, c'è anche una focalizzazione molto forte sui giovani, anche i giovani talenti che espatriano. Allora, quali progetti specifici avete in questo settore? Ai giovani italiani, soprattutto quelli che studiano all'estero, proponiamo una serie di progetti e di sfide, progetti che sono finalizzati al miglioramento della qualità della vita. I progetti di Vision sono sul futuro dell'università, sul futuro delle città, legato comunque a questioni ambientali, e questi progetti diventano anche la piattaforma per elaborare delle proposte che possono diventare anche disegni di legge, possono diventare delle iniziative politiche e possono diventare anche l'occasione per far emergere classi dirigenti che abbiano effettivamente investito in progetti di medio periodo su iniziative concrete. C'è un problema giovani, un problema generazionale in Italia che porta anche i giovani di talento ad andarsene. Sicuramente è abbastanza evidente che c'è un problema, è un problema che è stato analizzato e c'è abbastanza poco altro da dire. Abbiamo una classe dirigente debole e che premia il valore della fedeltà sul valore del talento o del merito. La focalizzazione di Vision è però quella di trovare delle soluzioni. La soluzione non può essere per i talenti che vivono più o meno all'estero e che hanno una significanza politica molto bassa, quella di aspettare che la politica si occupi di loro. Il obiettivo di Vision è quello appunto di costruire insieme con loro dei progetti che diventino delle cose, delle iniziative che riescono ad arrivare anche alle persone, alla quotidianità della gente. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.visionforum.it. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanceremo settimanalmente. La discussione della scorsa settimana era: culturalmente l'Italia tende a non responsabilizzare i giovani, a non farli credere in se stessi o, più banalmente, se non hai 40 anni non sei nessuno? Riccardo ci ha scritto: ovviamente è in primis nostra responsabilità dimostrare le nostre capacità, ma serve anche che chi sta davanti lasci spazio. Certi politici all'epoca della nascita della Repubblica avevano meno di 30 anni e sono usciti di scena da poco, sempre se lo sono. Non credo, sostiene Riccardo, che un trentenne di oggi abbia nulla da invidiare in termini di capacità a uno di 60 anni fa, ma se poi oggi ti trovi a confrontarti con gente in quella posizione da decenni, beh, è ovvio che l'esperienza faccia la differenza, almeno in un primo momento. Guardiamo alla classe dirigenziale dei paesi dell'Est Europa, tantissimi sotto gli ANTA. Perché? Ma è un processo che avverto un po' in tutti gli ambiti, anche nel calcio. Oggi i giocatori di 20 anni, anche i più forti, vengono considerati dei bamboccioni. Così conclude Riccardo il suo intervento. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione e prendiamo spunto da uno dei temi emersi nel corso di questa puntata. Quanto, a vostro avviso, è diversa la protezione sociale per i giovani in Italia e all'estero? Lo avete sentito, Luca Bergamaschi, documentarista, gode a Parigi di importanti sussidi di disoccupazione che gli permettono di vivere come freelance. E in Italia voi come vi sentite? Protetti dal sistema di ammortizzatori sociali se siete giovani, laureati da poco e magari anche precari? Per contattarci e rispondere a questa domanda potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanceremo settimanalmente la discussione. E finisce qui anche questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto allora i vostri contributi online. Vi ricordo giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.